Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo anche chiaramente delle varie iniziative che coinvolgono da un lato sul fronte europeo il regime applicato da alcuni colossi, il regime fiscale applicato da Irlanda, Olanda, Lussemburgo ad alcuni colossi che si chiamano Apple, Starbucks, anche Fiat Finance, perché l'Unione Europea ha aperto un'indagine, come vi hanno raccontato i nostri GR24, sul fatto che queste agevolazioni fiscali siano in linea con le norme sugli aiuti di Stato. Dice infatti il commissario Joaquín Almunia: nel contesto di bilanci ridotti è importante che le grandi multinazionali paghino la loro parte di tasse. Parleremo anche, cercando di capire dove stia portando questa inchiesta, di quanto è avvenuto a Trani. Perché lo dico? Perché anche qui il reato d'usura è un reato molto delicato, nel senso che stiamo cercando di capire. La legge ogni 3 mesi si stabilisce quello che è il tasso da non superare, altrimenti diventa tasso d'usura, nel senso che è stabilito all'8,7, se non ricordo male, per i mutui a tasso variabile, al 10,4-10,5 per i mutui a tasso, per i prestiti a tasso fisso. Però su questo c'è stata già una presa di posizione delle banche, perché Unicredit ha detto l'accusa è infondata, ma abbiamo fiducia nella magistratura. Per quello che riguarda invece il presidente Monte Paschi, Profumo ha detto non ho nessuna valutazione da fare. Anche Profumo e anche Monte Paschi è inserito nelle banche oggetto dell'inchiesta della procura di Trani. Ne parleremo nel giorno in cui, tra l'altro, se parliamo di banche e vogliamo anche parlare di mercato, oggi c'è una correzione complessiva. Allora, al di là del caso Monte dei Paschi, che ieri ha fatto mezzo sballare l'indice, ha fatto prezzo solo nel finale, adesso fa meno 20,2%, ne parleremo di nuovo nel corso dell'aggiornamento di borsa a 2,21 euro, ovviamente, ma anche le altre banche vanno male: Mediobanca meno 3, Banco Popolare meno 2,60, Pop Milano meno 2, come Intesa San Paolo, Pop Emilia Romagna meno 1,80 e ancora sul fronte bancario Unicredit meno 1,30% come UbiBanca. Negativa oggi anche Iux meno 2,50, Mediaset meno 2,30 come Tenaris, Finmeccanica perde il 2,20%. Di positivo c'è Ferragamo più 0,50%. E a proposito non di Ferragamo ma del lusso, oggi si è tenuto qui al Sole 24 Ore l'annuale appuntamento che si chiama Luxury Summit, quindi con le aziende del lusso, che è il settore che l'anno scorso si è rivelato più anticiclico, cioè mentre l'Italia segnava un segno meno dappertutto e anche a partire dal PIL, il settore del lusso cresceva, e cresceva tanto grazie alle esportazioni nei paesi emergenti. Ma di Made in Italy, non di solo lusso, si è continuato a parlare nel corso della missione del Premier Matteo Renzi, ma non solo, anche di tutta una delegazione. C'è il numero uno di Unicredit Federico Ghizzoni, quello dell'Enel Starace, quello di Finmeccanica Moretti e altre 50 aziende italiane. Accordi e contratti già presi: 100 milioni della SACE da un lato, ma anche l'accordo con Alibaba, sito fondamentale per vendere anche il Made in Italy. E altri accordi apparentemente minori, però importanti per il nostro paese. Di questo parleremo perché appunto c'è stata la prima riunione oggi del forum, del Business Forum Italia-Cina, proprio a Pechino, dopo le tappe di Hanoi e Shanghai. Dicevo in apertura, parleremo invece anche della vicenda Trani, ma non solo. Per quello che riguarda, mi chiedete dello spread: lo spread è stabile a 137 punti, la Spagna resta sotto di noi, 121 punti, dopo l'asta dei bot di oggi che è andata ben collocata, un vero e proprio pieno, il bot erano a un anno, il tasso è sceso al minimo storico, il tesoro è riuscito a collocare tutti i 6 miliardi e mezzo di euro, il tasso è un minimo storico, cioè sotto lo 0,5% come rendimento, lo 0,495 contro lo 0,65 che rendeva il bot a un anno. A maggio è chiaro che questo rendimento lordo è nettamente al di sotto anche della bassa inflazione che c'è, ed ecco perché tra l'altro il ministro dell'economia Padoan dice qui c'è un circolo virtuoso in atto ed è possibile continuarlo, però se l'Italia insiste sulle riforme che spingono la crescita economica. Che ci sia un circolo virtuoso è innegabile, indebitarsi a questi tassi di rendimento è il massimo della vita per il tesoro e quindi anche per l'Italia come paese, vuol dire che ti costa pochissimo, il minimo storico, trovare compratori per il tuo debito. E poi la spending review di Cottarelli, ora io mi rendo conto delle difficoltà, però il commissario per la spending review Carlo Cottarelli nel suo blog punta il dito contro gli sprechi e dice: attenzione, ci sono troppe luci accese di notte in Italia. Vi sarebbero risparmi immediati non trascurabili nell'ordine di 100-200 milioni di euro l'anno attraverso lo spegnimento di luci non necessarie, sono il doppio rispetto alla Germania e Gran Bretagna. Questa è sicuramente un'indicazione corretta anche per essere, diciamo, dei cittadini, diciamo così, ecosostenibili, però non è questo l'obiettivo della spending review, non è spegnere la luce, non è spending review, è spending review. Le altre notizie in breve. Allora, le altre borse volete sapere? Sì, sono tutte deboli, non deboli come Milano, però Francoforte perde lo 0,80 come Parigi, Londra meno 0,50, l'America meno 0,50. L'euro in effetti è sotto quota 1,36 a 1,3520, quindi un leggero indebolimento c'è stato. Ancora per quello che riguarda le notizie di carattere internazionale, la Banca Mondiale ha tagliato la stima sulla crescita mondiale quest'anno al 2,8%, pesano un inverno freddo negli Stati Uniti e la crisi dell'Ucraina. Nessuna informazione invece è arrivata dall'incontro tra Mario Draghi e Angela Merkel, quindi presidente della BCE e cancelliere tedesco, un incontro riservato e di routine, ha detto la Merkel. Abbiamo discusso con Draghi dell'urgenza delle riforme dei governi. Il Portogallo, anche lui, va in asta dopo 10 anni, ha fatto la prima asta di titoli di Stato a 10 anni dopo l'uscita del programma di aiuti. I tassi sono scesi ai minimi da circa 9 anni. In Gran Bretagna, buona notizia sul fronte della disoccupazione, è scesa al 6,6%. E tra l'altro vi è stata in Gran Bretagna una crescita record degli occupati con 345.000 posti di lavoro ad aprile. Colpo oggi per Airbus, il consorzio europeo per costruire veicoli, aerei diciamo. Emirates ha infatti deciso di cancellare un intero ordine per gli A350 dal valore di 16 miliardi di dollari. La compagnia di Dubai rinuncerà a 50 modelli A350-900 e 20 aerei A350-1000. Brutta notizia anche per i dipendenti della Danone, che è colpito dagli effetti della crisi, chiude 3 impianti in Europa, uno dei quali purtroppo è quello italiano di Casale Cremasco. Sono 100 posti di lavoro che verranno soppressi, gli altri 2 stabilimenti verranno chiusi in Germania e in Ungheria. Dicevamo del buon periodo, della finestra positiva per l'Italia sul fronte del debito. Questo alla luce anche delle notizie arrivate ieri, confermato un PIL in calo nei primi tre mesi, ma in aumento la produzione industriale. L'OCSE dice l'unico paese che migliora le sue prospettive di crescita. Dice il presidente Confindustria Giorgio Squinzi, attenzione, la ripresa è una ripresa effervescente, nel senso che se ne vede qualche segnale delle bollicine, ma stiamo ancora strisciando sul fondo. L'Italia è la seconda potenza industriale d'Europa, tra le prime 10 al mondo. Il 18% della sua ricchezza è prodotto dall'industria, il nostro PIL, e una quota equivalente da attività mosse dall'industria. 8 milioni di italiani vivono di industria, 500 miliardi di euro all'anno di prodotti italiani vengono esportati sui mercati di tutto il mondo. Nell'industria si fa la ricerca di qualità, ci sono molte occasioni di lavoro ricche di contenuti, c'è la maggior mobilità sociale, si mettono a prova competenze e capacità. Per molti all'estero l'Italia migliore è la sua industria, i suoi prodotti, la sua capacità di fare, la sua marca, il made in, appunto, ben fatto. E poi sempre il presidente Confindustria Squinzi ha chiesto a tutti i mezzi televisivi di dare un'attenzione diversa al mondo delle imprese, creando una cultura favorevole all'industria. Visto che parliamo di noi, visto che c'era l'Assemblea Generale di Confindustria e Radio Televisioni, vi vorrei far ascoltare un passaggio dell'intervento del presidente dell'Antitrust, Pitruzzella, il quale ha detto: niente come prima, in questi anni è cambiato tutto, probabilmente tra qualche anno lo scenario sarà ancora diverso con lo sviluppo delle nuove tecnologie, però attenzione, il settore non è in crisi, ma è in grande trasformazione. Certamente, appunto, nulla sarà come prima. Il cambiamento in corso è, appunto, i regolatori da una parte, le autorità antitrust devono seguire questa evoluzione, fermo restando che poi la regia fondamentale, a mio parere, resta della politica, nel rispetto dell'autonomia delle imprese. E qui colgo, termino proprio rilanciando l'invito del presidente Squinzi, che è un problema trasversale che non riguarda solo il settore, e cioè la creazione di un ambiente che sia complessivamente friendly, amichevole nei confronti dell'impresa. La sfida della competitività si vince creando, appunto, un ambiente che dia a chi vuole investire e fare impresa delle regole in tutti i settori, appunto, adeguate alle caratteristiche dei settori, ai settori tali da rendere, appunto, favorevole, appunto, l'impresa, in un contesto naturalmente in cui sia mantenuta e rafforzata la necessità di tutela del pluralismo, la necessità di tutela dei diritti dei consumatori e in generale la questione sociale. Così per quello che riguarda il futuro radio televisivo. Invece il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Livorno, torniamo alla cronaca a cavallo tra giudiziaria e economia, Fabio Massimo Mendella, è stato arrestato con l'accusa di concorso in concussione nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli, dove imprenditori avrebbero pagato oltre 1 milione di euro per evitare i controlli. Sempre nell'ambito di questa inchiesta c'è stata anche una perquisizione nel Comando Generale della Guardia di Finanza a Roma e risulterebbe indagato il generale Vito Bardi per un'ipotesi di corruzione. Poi c'è il fronte della Cassa del Risparmio di Genova. Sarebbero 3 i magistrati indagati dalla Procura di Torino per rivelazione di segreti d'ufficio nell'inchiesta che ha coinvolto in primis Giovanni Berneschi, quindi l'ex numero uno della banca, e altre 6 persone per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio. Gli indagati sono il vice procuratore della Spezia Maurizio Caporuscio, il procuratore di Savona Francantonio Granero, il magistrato del lavoro alla Spezia Pasqualina Fortunato. Visto che parliamo di magistratura, come sapete la Camera ha approvato a voto segreto un emendamento della Lega che introduce la responsabilità civile dei magistrati. In base al testo approvato, chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario in violazione manifesta del diritto, con dolo o colpa grave, può chiedere il risarcimento dei danni che derivino dalla privazione della libertà personale. Secondo la Società Nazionale dei Magistrati, l'ANM, il provvedimento sarebbe incostituzionale. E poi Uber e i taxi, per quello che riguarda le agitazioni, ve le stanno raccontando i nostri GR. Faccio e ricordo che oggi da Londra a Berlino, passando per Parigi e Milano, sono tantissime le capitali in cui è stato dichiarato lo sciopero dei taxi. Protesta internazionale che ha nel mirino Uber, la società californiana con la cui app si può prenotare un autista, e semplicemente con l'app che si scarica sul telefonino. La concorrenza, tra l'altro, l'applicazione sta prendendo piede soprattutto tra turisti e viaggiatori, evidentemente più interessati a noleggiare un'auto da dovunque con l'autista. La concorrenza è ritenuta sleale e intollerabile, i cortei in grandi città, appunto Parigi, Berlino e Amburgo. In risposta alla mobilitazione, Uber oggi offre il servizio con uno sconto del 20% sulle tariffe abituali, e quindi sembra che sia tutt'altro che chiusa la vicenda, diciamo. Anche perché immagino che poi oggi Uber avrà, nelle grandi città, avrà un botto di richieste, no? Essendo i taxi in sciopero. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Prima notizia, quella che riguarda l'indagine aperta sul fisco, insomma da più parti in questi giorni e anche in questi mesi, devo dire. Ci scrivete, ci chiedete, ma perché l'Europa non interviene sul fatto che alcuni grandi gruppi paghino le tasse, abbiano la sede legale in paesi dove c'è un netto vantaggio e non nel paese d'origine? Allora, non c'è nulla di illegale, però oggi la Commissione Europea vuole vederci chiaro per capire che non vi siano in realtà aiuti di Stato. Bisogna capirsi su questo. Non è in discussione, diciamo, il fatto che in Europa esistono diversi regimi fiscali. Non c'è ancora l'armonizzazione fiscale, quindi esistono diversi regimi fiscali. Quello che è in discussione è il fatto se alcuni paesi con determinati regimi fiscali di particolare favore per le multinazionali, per i grandi gruppi, non stiano di fatto aiutando come aiuto di Stato questi gruppi, il che è proibito dall'Europa. A dire, se tu hai un vantaggio fiscale così forte e questo vantaggio viene ripianato, diciamo, dai soldi dello Stato, che rinuncia dei soldi, potrebbe essere un aiuto di Stato. Sentiamo su questo il commissario europeo agli affari economici e monetari, alla concorrenza, scusatemi, Joaquín Almunia. Oggi la Commissione ha deciso di aprire 3 indagini per valutare se il regime applicato da Irlanda, Olanda e Lussemburgo a favore rispettivamente di Apple, Starbucks e Fiat Finance and Trade sia in linea o meno con le regole. Oggi apriamo queste 3 indagini perché abbiamo ragione di credere che attualmente, per ciò che riguarda questi casi specifici, le autorità nazionali abbiano rinunciato a tassare parte dei ricavi di queste multinazionali, consentendo loro di abbassare i profitti tassabili. Le indagini che avviamo oggi sono basate su analisi preliminari. Prima di adottare qualsiasi decisione, guarderemo con attenzione i documenti che ci manderanno gli Stati membri interessati e le parti terze coinvolte. In un contesto di bilanci ridotti e quando si chiedono ai cittadini grandi sforzi per affrontare le conseguenze della crisi, non possiamo accettare che le grandi multinazionali non paghino la loro parte di tasse. Allora, la risposta di Apple che dice paghiamo ogni euro di tasse, non c'è un trattamento di favore, ma attenzione perché su Apple si è mossa anche la Procura di Milano che indaga per evasione fiscale. Secondo gli inquirenti l'azienda avrebbe sottostimato l'imponibile 2010 per 200 milioni e quello 2011 per 850 milioni. Faccio notare 2 cose. Ne parliamo da un po' perché già nel 2012 segnalammo come Amazon, che non è coinvolta in questa inchiesta, Però nel 2012 Amazon in Italia, a fronte di circa 25 milioni di euro di ricavi, le filiali italiane hanno pagato 950 mila euro di tasse. Un po' pochino, un 25esimo. Facebook si è fermata a 132 mila euro di tasse. È praticamente una tassa di un contribuente unico, di quelli ricchi che le pagano. Google ha pagato 1 milione 800 mila euro di tasse a fronte di ricavi per 52 milioni. E nonostante profitti globali di oltre 41 miliardi di dollari, la controllata Apple Retail Italia, Apple è inclusa in questa, ha chiuso l'esercizio in rosso e ha addirittura maturato un credito verso l'erario di 2 milioni e mezzo. Apple Italia ha invece versato tasse per 5 milioni e 5. Il sospetto, meglio quella certezza in alcuni casi, è che i profitti vengano spostati verso le controllate domiciliate nei paesi con un maggior vantaggio fiscale, come l'Irlanda, ma non solo. Ora, va bene la concorrenza fuori dall'Europa, ma dentro l'Europa non è possibile che se la tua attività si svolge in Italia tu la vada con un giro di un societario a vada a registrare come attività che si è svolta in Irlanda, perché lì paghi meno tasse. Però il tema vero, a mio avviso, è non è solo un ragionamento su tasse o non tasse, è il tema degli aiuti. Marco Bellinazzo, Sole 24 Ore. Ciao, buonasera Sebastiano. Gli aiuti di Stato, perché sì, questo introduce, cioè la Commissione Europea non ha mai intervenuta sui diversi regimi fiscali, se no dovremmo chiederci cosa ci fa il Lussemburgo in Europa, perché c'è l'Irlanda in questo modo, e non può intervenire su quello. Ci sono due questioni che terrei separate. La prima è appunto quella per cui le legislazioni fiscali sono ancora nazionali e si può fare poco per armonizzarle, e sul fatto che il sistema fiscale dei singoli paesi è basato ancora su un concetto, diciamo, industriale di tassazione, cioè legato alla sede fisica. Ma se vuoi questo lo affrontiamo tra un attimo. Il problema, diciamo, più di cronaca, di stretta attualità, che riguarda Fiat, Starbucks e Apple, è legata a situazioni diverse, a situazioni in cui queste aziende si sono, come dire, insediate nei paesi come Lussemburgo, Irlanda e Olanda, attraverso un'operazione, diciamo, di ruling internazionale, cioè sono andate lì e hanno detto: signori, questo è il nostro modello di business, quanto vale la nostra base imponibile? E questi i paesi, le amministrazioni fiscali hanno detto: per noi vale 10, per noi vale 5, e sulla base di questa valutazione poi hanno applicato le loro aliquote già bassissime. La Commissione Europea contesta il fatto che nel calcolo di questa base imponibile questi paesi sono stati un po' troppo generosi, l'hanno, come dire, calcolata in maniera minima per attrarre queste aziende, in questo senso hanno creato una forma di concorrenza sleale, e su questo la Commissione sta agendo. Altro discorso, ripeto, quello che riguarda i giganti del web, le multinazionali, che operano invece in situazioni di elusione fiscale attraverso dei meccanismi e sfruttano, diciamo, le maglie, le incongruenze tra i regimi fiscali nazionali per pagare meno imposte, e lo fanno in due modi molto semplici: o facendo finta di non avere una sede fisica nel paese, e c'è tutto il tema delle stabili organizzazioni che il fisco italiano per esempio contesta, oppure c'è il problema del cosiddetto transfer pricing, cioè cosa fanno queste grandi multinazionali che hanno più società all'interno del gruppo? Fanno in modo che i ricavi fatti in un certo paese, in Italia dove la tassazione è più alta, di fatto vengano poi spostate in altri paesi, cioè tu vendi al cliente finale, però devi comprare da me, nello stesso gruppo, tutta una serie di servizi che ti faccio pagare a prezzi altissimi, e quindi tutti i profitti io li sposto in Irlanda, li sposto in Lussemburgo, li sposto in Olanda, per non dire in paesi a fiscalità ancora più privilegiata, e di conseguenza in Italia pago meno tasse. Sono questi meccanismi assolutamente leciti, chiaramente fanno arrabbiare i cittadini, fanno arrabbiare anche gli stati che hanno le casse vuote, hanno bisogno di soldi, e su questo si sta lavorando in sede OCSE da oltre un anno con questo progetto che si chiama BEPS, cioè contro il cosiddetto profit shifting, cioè il fatto di spostare i ricavi e i profitti in paesi dove si pagano meno imposte. Il problema vero, Sebastiano, è che se andrà bene, diciamo, i provvedimenti dell'OCSE arriveranno nel 2016-17, diciamo, delle restrizioni vere. Nel frattempo queste grandi multinazionali continueranno a produrre utili e a pagare le imposte poche dove vogliono. Allora, devo dare qualche risposta agli ascoltatori. Nessuno dice Ma, o meglio, non abbiamo scoperto adesso che l'Europa ha diversi regimi fiscali, lo sappiamo da sempre. Nessuno sta dicendo che con lo stesso ragionamento i turisti tedeschi dovrebbero pagare l'IVA in Germania, è una cosa diversa. Attenzione, qui non parliamo di IVA, parliamo di tasse sugli utili. So benissimo la differenza tra ricavi e utili, tra ricavi e MOL e quant'altro. Abbiamo solo detto che da più parti, c'è anche una procura che si è mossa, si è fatto notare che le tasse pagate rispetto al fatturato sviluppato in quel paese sono molto poche. Il motivo non è perché, diciamo, gli utili non ci siano o siano società che chiudono quasi in pareggio con pochissimi utili. Il motivo, come ha spiegato bene Marco Bellinazzo, è che con un meccanismo interno, se poi tu vendi, poniamo che tu abbia utili per 100 milioni di euro in Italia, se però poi devi comprare servizi all'interno della tua società, a chi ha sede fiscale, diciamo, in Irlanda, e li paghi tantissimo perché volutamente sono cari, magari paghi servizi per 80 milioni di euro, a quel punto ti restano formalmente solo 20 milioni di euro e di paghi utili. Le tasse su, in Italia su quei e 20, paghi le tasse sui 20. Il problema bene. È che questi 80 sono una partita di giro che resta all'interno dell'azienda. Il guadagno di questi 80 che verrà dichiarato viene dichiarato però in Irlanda, dove c'è una tassazione molto di vantaggio. Quindi alla fine i 100 milioni di utile che hai fatto in Italia solo per una piccola quota parte subiscono la tassazione italiana e per il resto subiscono la tassazione di altri paesi. Aggiungiamo una cosa, che non solo la tassazione per esempio in Irlanda è al 12,5%, ma poi il sistema fiscale irlandese prevede la possibilità che se tu hai una società, diciamo, aperta formalmente in Irlanda ma poi gestita, non so, dalle Cayman, paghi le imposte alle Cayman e quindi in realtà non paghi nemmeno il 12,5% ma il 2%, il cosiddetto sandwich double Irish, come i fiscali e gli economisti definiscono queste operazioni, che ora è troppo lungo spiegare, ma i meccanismi poi sono questi. Com'è che si chiama, sandwich double Irish? Esattamente, sono molto fantasiosi. Vabbè, non gli manca certo la fantasia dei fiscalisti. Però dicevo, per concludere su questo, Marco Bellinazzo, ripeto, l'Europa non è intervenuta sulla fiscalità nei vari paesi, è intervenuta, cioè potremmo usare questo paradosso: anche se domani i famosi 100 milioni di cui parlavo venissero tutti tassati in Italia, per cui tu non hai più operazioni in cui porti gli utili nella controllata o nella holding dove hai la tassazione più di vantaggio, l'inchiesta europea avrebbe un senso comunque, perché non è riferita a questo passaggio di utili da una parte all'altra, ma ai vantaggi che ogni singolo paese sta dando per avere la sede fiscale lì. Esattamente, il problema è io Lussemburgo, io Olanda ho stabilito che il prezzo di acquisto di quei famosi servizi, no, nelle operazioni di transfer pricing è 100. L'Europa invece vuole vederci chiaro, perché valutandoli a prezzi di mercato per quei servizi all'interno del gruppo si dovrebbe pagare 50, e quindi quei 50 in più rappresentano una forma, come dire, di incentivo, di agevolazione che quello Stato ha fatto, certo, all'industria, perché l'industria andasse lì e non altrove, e questa è concorrenza sleale. Se no dovremmo fare la stessa cosa anche sugli impianti produttivi della manifattura, lo dico a chi contesta questa cosa, cioè se io iniziassi a dire se investite, poni, nella provincia di Varese o in quella di Prato vi devo le tasse, l'IRAP ve la dimezzo al 70%, il giorno dopo arriva da Bruxelles una procedura di infrazione per aiuti di Stato, perché tu non puoi creare regimi non concorrenziali interni. Questa è l'Europa, secondo me il principio è corretto. Grazie a Marco Bellinazzo. Grazie a te, a presto. Meteo e pubblicità. Focus Economia. A 7:43 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di borsa, poi arriviamo invece anche alla procura di Trani e alla Cina. Allora, meno 1,24%, dicevamo, c'è il Monte dei Paschi che di nuovo fa sballare tutto, meno 20%, però c'è anche Mediobanca meno 2,88, Mediolanum meno 2,70, Banco Popolare meno 2,5, Mediaset meno 2,40. Tra le banche vorrei citare però anche Pop Milano meno 2,12 e Pop Emilia Romagna meno 1,80%, come Intesa San Paolo. UbiBank meno 1,60. c'è Ocondina, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Beh, dopo quattro giorni di rialzi, forse un po' di vendite sulle banche ci stavano, però Monte dei Paschi. Sì, un po' di vendite insomma su tutto il listino. Milano era quella che era più salita nelle ultime quattro sedute e oggi è stata la peggiore, infatti, di tutto il vecchio continente. Il Monte dei Paschi torna sull'ottovolante sin dall'inizio della seduta, però diversamente dal, insomma, dai due giorni precedenti riesce subito a fare prezzo e diversamente stavolta perde il 20%. Qui abbiamo anche i diritti oggi che hanno chiuso in ribasso, insomma comunque un atteggiamento un po' schizofrenico del titolo, dobbiamo dire, legato anche al fatto che, come già detto, è un aumento davvero iperdilutivo. Eh sì, iperdilutivo. Ancora, per quello che riguarda i titoli, abbiamo visto Tenaris flettere parecchio, meno 2,40. Abbastanza, infatti è proprio in mezzo a tutte le banche, spicca tra i ribassi. Qui c'è il tema della concorrente francese Vallourec, che a Parigi ha perso oltre il 10%. Vallourec oggi ha rivisto a ribasso le stime sui target e sui risultati finanziari del 2014. L'azienda ha forti difficoltà in Brasile, si riducono le commesse in Medio Oriente e in Mare del Nord e si prevede un calo dei margini del 10%. Chiaramente segnali di nervosismo da parte degli operatori che temono eventuali riflessi per tutto il settore e quindi anche per Tenaris. Ancora sui titoli, devo dire, oggi il lusso, visto che fra poco ne parleremo, ha tenuto, anche perché Salvatore Ferragamo più 0,30, Tod's più 0,15, Moncler meno 0,16%. Bene, vista la giornata, anche Buzzi Unice meno 0,50% e Telecom Italia più 0,25%. Telecom da un lato, dall'altro invece Mediaset che perde il 2,36. Ma guarda, Mediaset sono in questo caso realizzi legati al forte rally dei giorni scorsi. Qui c'è il tema della potenziale offerta di Telefonica da 350 milioni di euro per liquidare Mediaset dalla PTV spagnola, sicuramente un incasso che potrebbe essere importante per, insomma, per il gruppo di Cologno. Dall'altra parte c'è Telecom Italia che ha un passo da quota 1 euro a 0,99, oggi ha guadagnato lo 0,25%. Qui c'è insomma la attesa per questo mese di giugno in cui i soci di Telco potrebbero decidere di uscire dalla holding che controlla Telecom Italia e oggi a proposito è previsto un consiglio di amministrazione delle generali e leggendo i quotidiani di oggi si evince che questo consiglio potrebbe davvero decidere sull'uscita di generali da Telco. Ancora migliori e peggiori in assoluto. Eccoli qua, Digital Magix più 7,40, F più 5,40, Grandi Viaggi più 3,40 come compagnia della ruota. A fronte opposto, oltre a Monte dei Paschi, Meridi è meno 4,90, First Capital meno 4,37%, Sabaf meno 4,22%. Grazie a Ciao Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Traffico. Focus Economia. Allora, la notizia di ieri sera, la Procura di Trani che ha notificato 62 avvisi per concorso in usura bancaria per i vertici di BNL, Unicredit Monte dei Paschi e Banca Popolare di Bari. 62 le persone alle quali la Guardia di Finanza ha notificato l'avviso di fine indagine, anche ex dirigenti di Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia, si contestano tassi usurari sui finanziamenti e muove da un esposto l'indagine dell'Adusbef. E viene chiamata in causa anche la Banca d'Italia con l'attuale presidente della RAI Tarantola e l'ex ministro dell'economia Saccomanni per il ruolo che ricoprivano Saccomanni e il direttore generale in Banca Italia. Anna Maria Tarantola invece al tempo era ex capo, era capo della vigilanza della Banca d'Italia e viene, diciamo, sono con reati contestati per gli incarichi ricevuti in precedenza. Allora, le reazioni, dicevo, del presidente del Monte dei Paschi Profumo, che ha detto non ho nessuna valutazione da fare. Invece il presidente, anzi l'amministratore delegato del gruppo Unicredit, Federico Ghizzoni, ha detto Unicredit ritiene infondato l'impianto accusatorio. Allora, cerchiamo di capirlo meglio questo impianto accusatorio con il nostro Vincenzo Rutigliano in collegamento da Bari. Buonasera Vincenzo. Buonasera. Allora, qual è l'accusa che muove la procura di Trani, ormai la procura più specializzata nei reati finanziari, visto che ce l'ha anche con l'agenzia di rating Standard & Poor's e per il modo e grandi banche per come hanno venduto ai comuni italiani i prodotti strutturati, ma in questo caso qual è l'accusa? E l'accusa è di aver praticato tassi ad alcuni clienti imprenditori del Barese. Negli atti ci sono 5 esempi su tutti gli altri, di aver praticato tassi usurari, quindi di aver calcolato l'algoritmo che dà origine al TAEG in un modo tale per cui si determinasse una percentuale, quindi un tasso variabile tra il 9 ed il 20%, con il risultato appunto che secondo il pubblico ministero inquirente Michele Ruggero queste banche avrebbero praticato tassi usurari. L'accusa infatti di usura continuata ed aggravata nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2012 e sono sotto inchieste, quindi ieri la Guardia di Finanza ha notificato loro gli avvisi di conclusione dell'indagine, appunto le 62 persone di cui avete più volte parlato. Allora vale la pena di... ci sono... Sì? Tra questi ci sono appunto anche i dirigenti di Banca Italia, come avete detto, e un dirigente in carica del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia. Ecco Vincenzo, ma se ho ben capito, l'accusa che muove la procura è di dire, allora, il tasso d'usura funziona così, ogni 3 mesi viene ricalcolata la soglia superata la quale caschi nell'usura. È stato modificato nel 2011 il sistema con cui la Banca d'Italia calcola l'usura. Prima si prendeva la media dei tassi praticati per un certo periodo e tipo di finanziamento e lo si aumentava del 50%. Se il prestito era superiore alla media dei tassi praticati per quel tipo di prestito del 50%, eri in usura. Ora invece la base di partenza è sempre il tasso medio praticato, che va aumentato del 25%, al quale si somma un altro 4%, per cui in pratica con il vecchio tasso, facendo base a 10, il tasso di usura sarebbe stato al 15%, mentre con quello nuovo, partendo dalla stessa media, si arriva al 16,5%, e tra l'altro strutturato in questo modo con una quota fissa, il risultato finale risente ovviamente meno del miglioramento delle condizioni dei mercati monetari e garantisce alle banche un cuscinetto di profitti un po' più ampio. Detto ciò, l'accusa di Trani è che venivano concessi 100.000 euro, poniamo, a un imprenditore a tassi non di usura, se no non se ne accorge subito, però poi il tasso complessivo veniva applicato anche sulla quota parte che l'imprenditore aveva utilizzato, cioè tu chiedi 100.000, magari ne usi 30.000. Prego Vincenzo. Esatto, con il risultato appunto di arrivare all'applicazione di tassi compresi a seconda dei periodi tra il 9 ed il 20%. E questo sarebbe accaduto in almeno 4 casi, per entrare nel dettaglio, quello di un'impresa di Barletta alla costruzione crescente, nel qual caso sarebbe maturato un vantaggio per BNL di 42.000 euro, sarebbe successo per la Best Side per poco più di 2.000 euro, per la Aligest, questa volta a favore di Unicredit, per 1.800 euro e c'è appunto anche il caso della Popolare di Bari, banca nel qual caso il vantaggio sarebbe stato, si legge sempre nell'avviso di conclusione dell'indagine del PM Ruggero, di 296 euro sottratte all'imprenditore, sì, allora, Luigi Salvatore Gianfrancesco. Allora, tutti gli euro sono importanti, le cifre di cui stiamo parlando sono molto molto modeste, lo dico perché anche la Procura di Trani intanto ci ha abituato a un po' di sensazionalismo. Comunque grazie Vincenzo Rutigliano, adesso GR24 e poi la missione in Cina e il settore del lusso di cui oggi molto si è parlato qui al Sole 24 Ore. Focus Economia. 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso della tappa odierna della missione imprenditoriale in Cina, guidata dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ma anche, come già anticipavo nel corso del collegamento di borsa, del settore lusso, settore che l'anno scorso è stato l'unico settore ad avere quei tassi di crescita chiamati anticiclici, cioè che vanno contro il ciclo era negativo, ma invece è continuato a crescere il settore del lusso. E oggi, nel corso dell'annuale appuntamento qui al Sole 24 Ore del cosiddetto Luxury Summit, che collega i principali attori protagonisti del settore moda, non solo lusso, moda, lusso e anche finanza e private equity, oltre 1000 partecipanti, si è discusso molto anche di quotazioni in borsa, di reperimento delle risorse finanziarie, acquisizioni, anche nuove politiche nel retail, nella vendita e le potenzialità dei mercati emergenti. Ecco perché ne parliamo prima di occuparci di Cina. Secondo il sistema Moda Italia, comunque nel 2014 vi sarà una ripresa del tessile moda. L'anno scorso il fatturato complessivo del tessile moda ha fatto meno 0,7%, con 1450 aziende che hanno chiuso e 11.000 addetti in meno. Quest'anno però, lo stima il presidente del Sistema Moda Italia, Claudio Marenzi, dicevo, quest'anno vi sarà una ripresa soprattutto nella seconda parte del 2014 e si stima una crescita del settore del tessile e moda, uno dei quattro settori fondamentali di questo del Made in Italy, secondo la ricostruzione di Marco Fortis, del 3,6%. Il tessile, come ha spiegato lo stesso presidente del Sistema Moda Italia, trarrà beneficio dalla ripresa del mercato americano e dalla conferma di quello cinese. I dati del 2014 ci dicono che siamo nettamente in ripresa e questa ripresa, che più o meno cuba un 3,5%, viene tutta dall'estero, per cui ovviamente le nostre aziende, questo vale sia per il monte che per il valle, cioè per il tessile e per l'abbigliamento. L'abbigliamento oramai è un'area positiva di rendimento negli ultimi 3 anni, il tessile è il primo anno, per cui vuol dire questo è molto importante. Il tessile si sta concentrando su due mercati principali e sono la Cina e gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è una ripresa e invece ovviamente dalla Cina da sempre c'è una forte tradizione di produzione di abbigliamento. Tutti e due i paesi hanno bisogno dei nostri tessuti per un upgrading della loro qualità e questo per noi ci porta appunto a questi risultati. Per quanto invece riguarda l'abbigliamento, per cui la moda vera e propria, i mercati sono globali, dobbiamo parlare ovviamente dell'Europa, degli Stati Uniti, la Cina sta un po' rallentando da questo punto di vista e quello che ci preoccupa di più forse è la Russia, sia per la crisi ucraina, ma credo relativamente, ma molto di più sulla debolezza del rublo. E questo ci preoccupa, ma anche lì io penso che sia una questione di temporalità, insomma penso che non ci sarà un problema a lungo, ma sicuramente nel breve, forse nel medio, dovremo rivedere le nostre strategie su quel mercato. Quindi sul breve termine qualche problema in Russia, mentre l'intervista del presidente del Sistema Moda Italia era a microfono la nostra Maria Luisa Pezzali, e sempre la nostra Maria Luisa Pezzali ha raggiunto anche Antonio Achille, che è il managing director di The Boston Consulting Group, sulle prospettive di crescita dell'intero settore. In questo caso parliamo solo del lusso, non di tutto il tessile moda. Secondo Boston Consulting, dopo il grande sviluppo nello scorso decennio del mercato cinese, si dovrebbe assistere nei prossimi anni invece a una ripresa molto forte del mercato americano. Effettivamente il lusso continuerà a crescere, ma lo farà in maniera più selettiva, e i mercati che si affacciano su questo palcoscenico internazionale cominciano a cambiare un po' nome. Indubbiamente il decennio passato la Cina ha costituito il motore principale di crescita e profittabilità e gli Stati Uniti hanno attraversato un momento particolarmente delicato nel decennio passato, perché c'è stato, a partire direi dall'11 settembre, alla SARS, al crollo finanziario, che hanno in qualche modo unito un euro molto forte, ha reso molto difficile le esportazioni. Il prossimo decennio, a nostro modo di vedere, in qualche modo la musica cambia tono, con l'Asia che continua a crescere ma in maniera molto più rallentata, più selettiva, più contenuta, anche se è un mercato interessante, e gli Stati Uniti che tornano a ruggire, quindi tornano a essere un mercato particolarmente rilevante e particolarmente rilevante per l'azienda del lusso e del Made in Italy. adesso ascoltiamo anche il presidente di Moncler, Remo Ruffino. Devo dare una risposta ad alcuni sms che arrivano al 349-238-6666. Non abbiamo detto che l'inchiesta della Procura di Trani sia un'inchiesta irrilevante o minore. Abbiamo solo fatto notare che gli importi presenti nelle accuse alle banche sono importi minori, in alcuni casi anche minimi, di qualche centinaio di euro, di qualche migliaio di euro. Il che non vuol dire che il tema... A noi lo dite, dei tassi praticati dalle banche per i prestiti non sia un tema delicatissimo e che è giusto che vada investigato. Ho solo detto che gli importi, cioè l'elemento economico di cui si sta parlando, era un elemento modesto. Comunque, torniamo invece sul nostro tessile abbigliamento. Maria Luisa Pezzali ha raggiunto anche il presidente di Moncler, Remo Ruffini, che ha parlato della crescita dell'azienda dopo la quotazione, una delle quotazioni più importanti l'anno scorso in borsa, di quest'anno in borsa, scusatemi, sottolineando però anche che il mercato asiatico non è solo Cina, ma anche altri nomi che spesso tralasciamo, a partire dal Giappone, ma poi la Corea, Macao, Hong Kong. Dato che non si può fare nient'altro sulle altre riforme, quantomeno l'export è quello che ci dà una grossa forza e tutti noi stiamo lavorando per questo. Credo che Moncler l'ha fatto bene, era un'azienda che aveva il 90% solo pochi anni fa di distribuzione nazionale, oggi esportiamo più del 75-80%, dunque siamo contenti. È difficile, ci vorrebbe uno Stato che ti dà una mano, come dico, ma... anche a livello di emozione, no? Di positività, di voglia di fare. Sicuramente qualcosa sta cambiando, speriamo che ci siano le basi solide, perché poi devono crescere i volumi, il PIL è fondamentale, ci vuole crescita e questo non credo che in 3 mesi si possa fare niente, mi sembra che sia un buon inizio. La missione di Renzi in Cina, il giudizio? Ma la Cina, come dicevano prima, è un mercato fondamentale, direi tutta l'Asia, noi abbiamo cercato di diversificare veramente i mercati, la Cina è il 50% del nostro fatturato in Asia, bisogna stargli molto vicino, vogliono dei marchi forti, non vogliono improvvisazioni, il consumatore è molto veloce, cambia idea molto velocemente, per noi è un mercato a cui crediamo, anche se io credo che bisogna essere in Asia più che in Cina, ci sono dei mercati molto interessanti, da Hong Kong a Macao, la Corea, il Giappone, e noi cerchiamo sempre di diversificare il rischio, perché in un mercato che è cresciuto così tanto non si sa mai cosa può succedere. E dopo il traffico vedremo invece quali altri accordi, oltre a quelli che abbiamo già raccontato in questi giorni, sono stati firmati nella terza tappa della missione italiana, che prima ha toccato il Vietnam, poi Shanghai, oggi Pechino, la sessione inaugurale del Business Forum Italia-Cina e poi si chiuderà con il Kazakistan. Focus Economia. Together. Missione italiana in Cina, oggi è entrata nel vivo del Business Forum a Pechino dopo l'incontro tra il presidente della Repubblica Cinese Xi Jinping con il presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi. Stando alle indiscrezioni, il presidente cinese avrebbe espresso le congratulazioni a Renzi per le riforme avviate. Renzi ha detto: attenzione, alla luce anche dell'interscambio commerciale, già ne parlavamo, l'interscambio vale 33 miliardi, solo che è così diviso: 23 è quello che importiamo dalla Cina, 10 quello che riusciamo a esportare noi in Cina, quindi sono 2/3, 1/3. Renzi ha chiesto investimenti più forti della Cina in Italia, anche se l'Italia poi deve correggere la sua asimmetria nell'export. Io sono grato, ha continuato Renzi, agli imprenditori che investono in Italia, e sono grato agli imprenditori italiani che sono qui non per delocalizzare ma per internazionalizzare, ossia rendere globale il proprio business. Vari gli accordi firmati, ascoltiamo questo passaggio del ministro Guidi, Federica Guidi, che appunto è assieme al premier Renzi e altre 50 imprese, tra cui alcune molto molto grandi, le più grandi del paese, in questa missione vietnamita, cinese, poi anche kazaka. Credo che le parole del Presidente del Consiglio siano molto importanti. Io che vengo da questo mestiere ho sempre pensato che le aziende crescono per processi di internazionalizzazione. Naturalmente bisogna mantenere e preservare le produzioni in Italia, ma bisogna lasciare crescere le nostre aziende. L'unico modo che io conosco per farlo è che queste le nostre aziende vadano il più possibile sui mercati internazionali. Ci sono mercati come questo in cui è quasi impossibile fornire se non si hanno basi produttive anche in questo paese, per ragioni di costo, di logistica e anche di rapidità per servire i mercati. Quindi il termine internazionalizzazione è un termine assolutamente positivo, che vuol dire far crescere le aziende e garantire naturalmente per queste aziende anche un futuro naturalmente nel nostro paese. Così, ministro Guidi, mi chiedete che cosa importiamo dalla Cina. Beh, soprattutto abbigliamento, 2 miliardi di euro di controvalore, cellulari, telefonia e personal computer, 2 miliardi e 2, macchinari, 1 miliardo, calzature, quasi 800 milioni. Cosa esportiamo in Cina? Macchinari per 2 miliardi e 2, poi autoveicoli, mezzo miliardo, e abbigliamento, 400 milioni. Dicevo dei contratti firmati, Gerardo Pelosi sta seguendo la missione del Presidente del Consiglio e l'inviato del Sole 24 Ore. Buonanotte Gerardo. Buon pomeriggio. Ok, ognuno da te, io dico buonanotte, tu dici buon pomeriggio, così io sembro in Cina e tu in Italia. Va bene così. Diciamo un po' gli accordi, abbiamo raccontato in questi giorni la SACE che mette 100 milioni per assicurare il credito italiano, l'accordo, il credito, diciamo, o meglio per assicurare le operazioni di imprese italiane in Cina, l'accordo con il portale Alibaba per vendere i prodotti cinesi, ho visto molta ironia sul nome del portale Alibaba. Va bene, c'è qualcuno che scrive il portale Alibaba è in Cina ma i 40 ladroni sono in Italia, immagino che si colleghi alle notizie di questi giorni. E poi Enel oggi ha firmato a Pechino altri due accordi. Sì, sulla efficienza energetica e sul diciamo sull'ambiente. Ma al di là di questi aspetti, in realtà l'accordo quadro e il piano di azione triennale che rende strutturale questa partnership strategica dopo le visite delle autorità in Italia, si è creato una, come dire, un filo rouge di contatti che poi proseguiranno anche a ottobre, quando il primo ministro cinese verrà a Milano per partecipare al vertice ASEM con i capi di Stato e di Governo europei. Che cosa c'è da dire? C'è da dire che forse a sentire Renzi oggi parlare della internazionalizzazione, di fare sistema paese, e ci viene in mente quello che nel 2005, sono passati quasi 10 anni, andava ripetendo il ministro dell'economia dell'epoca, Giulio Tremonti, ci ha fatto anche un libro, Rischi fatali, difendersi dalla Cina, difendersi dalla concorrenza sleale, dal dumping. E forse abbiamo perso troppo tempo, mentre altri paesi come la Germania, la Francia e il Regno Unito, proprio attraverso gli investimenti qui in Cina, riuscivano a consolidare le loro posizioni nel vecchio continente. E adesso lo stesso Renzi ammette che se la Piaggio non avesse fatto l'investimento in Vietnam sarebbe stata costretta a chiudere Pontedera. Quindi non imprenditori che a delocalizzare per cercare di fare shopping sul costo del lavoro migliore, ma lo strumento per garantire i posti di lavoro. Cioè, poi era da settore, è un po', diciamo, la linea Marchione, se vuoi. Sì. Poi, certo, dipende da settore e settore, quali settori magari manterranno il design e il centro produttivo della ricerca e sviluppo in Italia, altri manterranno diciamo soltanto delle unità produttive un poco più raffinate, così si parla del traffico di perfezionamento passivo fatto all'estero, però questo complesso, questa grande realtà, questo continente che ormai cresce a 2 cifre, rappresenta la vera opportunità per i paesi dell'Europa che crescono di decimali, 0,00. Quindi questa è la sfida per cercare di partecipare alla globalizzazione. Allora, su questo dico molto modestamente che anche noi la prima volta che trasmettevamo Focus Economia, penso fosse il 2005, dalla Cina proprio, raccontavamo molte storie di imprenditori, ne ricordo una in particolare, una fabbrica di cappe da cucina nella zona di Fabriano, che erano riusciti a salvare la produzione in Italia e i dipendenti in Italia, avendo aperto anche stabilimenti in Cina. L'errore, come tu ricordavi, è stato politico, cioè per troppi anni, mentre i tedeschi e i francesi andavano in Cina a produrre anche lì, da noi l'idea era blocchiamo le importazioni cinesi, mettiamo i dazi, la Cina ci distrugge, ma nessuno che cercasse di sfruttare anche l'opportunità di un mercato, non solo di prodotti a noi concorrenti. E quindi errore della politica che si è mossa sempre male con ritardo, devo dire forse tranne una missione di Prodi in Cina, nella presenza italiana in Cina, ma anche errore di molte imprese che hanno pensato all'inizio di andare in Cina solo per vendere quello che già facevano in Italia, non capendo che bisognava andare a produrre in loco. Quando è che vi trasferite, che la missione si trasferisce poi in Kazakistan? Domani mattina c'è un incontro con il governatore della Banca Centrale da parte del Presidente del Consiglio, poi una intervista a una televisione, la CCTV, che ha una, come dire, una base di ascolto di 200 milioni di spettatori. Un po' come Radio 24. Esatto, sì, siamo lì. Che cosa si vuole fare con l'Expo del 2015 e poi la partenza per il Kazakistan. Il Kazakistan è una missione dove sarà difficile per noi seguirla, ma a nord di Astana il Presidente del Consiglio insieme all'amministratore delegato dell'ENI Descalzi presenzieranno alla firma di un accordo tra l'ENI e l'ente energetico kazako per un accordo quadro che prevede un allargamento rispetto a Kashagan ed è quindi un accordo importante, il primo della nuova dirigenza dell'ENI. Non si esclude che si parlerà anche della normalizzazione dei rapporti dopo il caso Shalabayeva, però il focus è sicuramente sui problemi economici ed energetici e poi il rientro tarda serata, verso mezzanotte a Roma. Per quanto riguarda gli appuntamenti prossimi, venerdì un Consiglio dei Ministri che dovrebbe mettere a punto la riforma della pubblica amministrazione, su questo adesso abbiamo proprio pochi minuti fa finito un colloquio informale con il Premier, ci ha detto forse il grosso di queste misure saranno con una legge delega, ma ha enfatizzato molto quello che è linea guida per i prossimi appuntamenti dell'assemblea del PD di sabato, che dovrà fare anche il punto su questo successo elettorale del 40,8%, fatto storico, che secondo Renzi rappresenta anche una grandissima responsabilità per un partito che adesso deve dire agli italiani e ai suoi elettori cosa vuole fare e in quali tempi. E quindi di ritorno da Kazakistan subito il Consiglio dei Ministri. Grazie a Gerardo Pelosi in collegamento con noi da Pechino. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.